comunque, perché praticamente l'acqua entra proprio dove c'è la bobina, capito? Sì, ce l'aveva Marco, eppure ce l'ha Marco Condor quell'antenna, e funziona benissimo, ha detto. E quella sarà. Invece a Marco Scorpione e a me ci è andata male. Non lo so, perché quell'antenna lì prima di piazzarla voleva isolata bene col vulcanizzante e poi piazzata. Vabbè, il problema è sempre quello. Ah vabbè, se riesco a piazzarmi la Green Master sono a posto. Sì, hai fatto, vabbè, l'hai presa, piazzi quella e hai finito di soffrire. Infatti io quando ti ho chiamato volevo andare a prendere le staffe e il palo, capito, là, per scegliere le staffe belle grosse, amprose. Io ne ho due in campagna, quelle che sorreggono la mantova 5, quelle sono staffe di lusso veramente. Ma quell'antenna in campagna se non la usi cosa fai? La devi buttare giù. Se togli le staffe devi buttare giù l'antenna. E prima o poi già ne cade da sola. Quando ne cade, ne cade. E chi se ne frega? A Giubinsa, a Tananta Cabiciuria, a tirarne l'antenna, la lascio lì. Oh, yeah. Vabbè. L'avete detto. Non so che dire, l'unico sistema è o lo trovi e parlarli a questo imbecille, se si riesce a parlarli, se no, tutto lì. Vai Giafra. Ma lascialo perdere, metti stare da un'altra parte, una frenata lì, ti procuri una scala e la metti lontano da questo imbecille. Sì, ma infatti, perché poi Gianfra tocca bisticciare, lo so, vai a finire alle mani, perché è ignorante già come persona, poi beve pure, figurati. Ma mi pare che sia spaccendi. Vabbè, saranno problemi suoi, già lo beccano prima o poi, non ti preoccupare. Oppure lo trovano in qualche angolo, come è successo a tanti, perché magari ha sbagliato la dose. Ma infatti, lo trovano dormito o morto da qualche parte. Non ti preoccupare che già lo beccano prima o poi, Natali, tranquillo. Anche i più furbi trovano, pensa tu. Sono rimasti essere drogati che li vado in IP alla vettura, non hai compreso. Allora voi, chi è che te l'ha data? Certo che sì. Già ci sono anche in borghese, tranquillo, non c'è problema. Stamattina ero giù alla piazzetta e ne hanno beccato due. E due in borghese, scesi al volo, all'istante, scesi dalla macchina, poi caricati dentro. E vuol dire che erano i cigendi? Due rumini hanno preso stamattina. Un'altra manca di tonti, sanno che ci sono le telecamere di lì, e fanno proprio via a spacciare. Sono andato a vestire la sicurezza, chi erano quelli dell'arma? Cappa di positivo, ce n'era una in barba lunga che sembrava un tossico, tutto tatuato, e un altro con la codetta. Ma quindi era polizia forse? No, erano carabinieri. E allora era il nucleo... No, non erano del radiomobile, era del coso lì, dell'antidroga dell'arma. E infatti ci avevano una 155, una 155 blu, in borghese, sono scesi, 5 secondi ci hanno messo. Sì, con tutto quello che ne carrano. Non è andata bene che non ha la finanza, e quelli sono anche meno delicati. Uiute, casino. Ma per carità, adesso c'è questa mascherina, vanno più bene, ci vuole un altro tipo di mascherine. Ci abbiamo comprato le altre mascherine, per carità, 1 euro una mascherina, allucinante, 1,50 euro. Perché ci marciano anche. Quelle lì sono solo dove c'è forse, come si dice, dove c'è molta gente, capito, dove ci sono assembramenti, se no hanno detto che vanno ancora bene le altre anche, quelle chirurgiche, devi entrare e uscire. Sì, infatti io sto usando quelle, Gianfranco, però ho preso anche le altre, capito, quelle quelle che adesso non mi ricordo cosa che tipo di mascherina sono, quella a bocca, a coso di occa mi sa, capito? Quelle bianche, e le FFP2 si chiama, quelle che c'ho io. L'SP2, sì, quelle lì. Sì, 10 di quelle, praticamente 10 euro. Sì, addirittura. Sento un attimino. Ok, Gianfra. Capito, Madari, tutto affare di soldi, eh. Con il seno ci sono soldi, non puoi fare più niente. Tutto lì. E infatti. Oiui, roga ridare. Tu dove stai, bene? Non c'è da mangiare in minestra. Vabbè, ma sono troppe. Allora, adesso e poi... Ma, gira, adesso mi misuro la glicemia e mangio qualcosa. Oiui, fra, cosa vuoi che ti dica? Buonasera. Ciao Antonio, buonasera, buon anno mi. Grazie Natali, buon anno anche a te. E saluta anche a Sara, mi da parte mia e da parte di mia moglie. Gatta, è la revolvera, vabbè, anda saluti. Cosa? Era la signorina, ma la brate. No, io, la giugano in marricchia. Cosa ti fate? No, ma non ce l'ho mai avuto il vizio di sparare. Qualche volta col fucile quando ero in campagna, sì. Ma in città è pericoloso. Pare a salve non ammazza nessuno. Ma io non ne ho a salve, ce li ho solo veri. Capo, ma ci fanno quelle a salve della tua, devi averne un'altra. No, a salve della mia no, è calibro 9 la mia. Ci sono anche calibro 9, però bisogna vedere come è, capito? Bisogna vedere, si va da neve. E che ti assolta la recce, ma non succede nulla, non ammazzi nessuno. È casino e buco. Già lo so, ma è meglio non usarle quelle re con queste cose a salve, non si sa mai. Cosa rifate? È meglio avere di quelle scacciacani, almeno sei sicuro che le in camera. La mia non lo so se quelle che vendono a salve le in camera e tutto, boh. È meglio quella vera non usarla mai. Più poco la usi e meglio è. Beh, è normale. Perché se volevo fare casino me ne compravo una di quelle a salve e sparavo con quella. Fa casino e buco. Cappa. Chi si gliene fate nel casino? La 9 mm non l'hanno fatta più perché si spaccavano. Perché forse facevano le cariche troppo forti, siccome non erano in acciaio come quella che ho io, si spaccavano sì. Non ne fatto più, cioè non ne prendono più, non è che non ci sia, ma... Io lo chiamo. Le 8 vanno benissimo. Infatti io sapevo che c'erano 8 mm quelle che... Puoi anche chiudere un caffè? Che usavano, capito? Calibro 9 magari è troppo forte la carica e non la regge se non è in acciaio la canna, capito? Sicuramente, eppure dovrebbe essere l'imitazione quella vera, eppure non la regge lo stesso. O sono troppo forti queste cartucce? No, è il materiale che non è acciaio. Quelle vere hanno la canna d'acciaio, il carrello è tutto in acciaio, se no si barra. E già un grido io, gappa. E beh, Natale oggi va un po' meglio l'antenna. E quale? L'antenna mia. Ehi, a chi è? Natale, care. Come chi è? Ho sentito, Ruganio, chi non vuoi favillare? Piccolino, Ovviamente oggi sicuramente c'è le stazionarie più basse, perché anche di modulazione ti sento meglio. Isabella, te lo dico subito. Allora. Una e uno ne due. Già, bene. Ehi, a chi mi sarà a fare a dare la compreso da? Come ti piovi, che fa stanno a due e mezzo? Io ho capito che c'è cosa come ti chiacchierano le proprie stanze. Purtroppo hanno quel difetto lì. Per esempio a Marcolino Condor, che ce l'ha uguale, non gli è mai successo nulla. A me mi si è riempita d'acqua e a Marco Scorpion lo stesso, che ce l'aveva uguale. Vai giù a pillara, vedami di difetto. Deve essere che si è rovinato l'anello di sopra dove c'è la bobina e entra da lì. Sicuramente. Purtroppo sono anche in guerra con quello di sopra, che non me ne vuol far piazzare. E adesso ci ho buttato i soldi. Ma non me lo devo far piazzare. Dito chi anda in casino e mi denuncia già uno solo d'altro. Ah bravo, l'aveva detto, pare, non mi rompi le balle. Eppure è così, non me ne vuol far piazzare. Io ho il permesso del padrone, perché lui non è padrone, lui è affittuario. Aveva detto, se tocchi burlante, da sono cavoli due. Mi ha chiuso il telefono in faccia, me ne ha detto di tutti i colori e poi ha chiuso. E non risponde a nessuno e non si fa vedere. Ah, così è. Vedi che ci ribassa. Purtroppo, se lui non mantiene il tubo o non mi fa entrare a casa, non la posso manco smontare questa. Scappa, gliel'avrei fatto pagare. Sì, infatti. Così farò. Non me ne vai via tante, né ci tieni qui da sassa, di Dio di Dio. Se no ti buco una che cosa io. Cazzo, ma su San Roccio non facevo una da vita. Non si fa dividere. Sì, sì. Oh, me merda. Attento, Cicco. Avanti. Allora, che si dice? Com'è la situazione? Tutto a posto? Tutto a posto, tutto a posto. Adesso io tra un po' mi parruggerò, che no, che facciamo un bordello. Ah, a casa? Vabbè, anche noi. Anche noi. Cappa. Va bene. Rui, tattalino, e cosa ci vuoi fare? Natali! Già sono qui! C'era qualcuno che stava chiamando, non ho capito chi è. Chi è che chiama Muros? Avanti, non c'è Muros qua, è andato a mangiare. C'era uno che stava chiamando Muros, attenzione Muros. E Muros non c'è sta, è andato a Papai. E quindi anche voi siete a casa? E quindi botti? Botti, la notte grandi botti. Ma senti la radio come scherreggia? La gara che trudieggia. La radio, ma scherreggia? Ah, voi che trudieggia. Ah, no. Figurati, da 10 a 40 watt. Già va bene, cappa. È logico che deve andare bene. Perché andare, se non andare l'avremmo andato. Aspetta a vedere che mi ha fatto un messaggio, sia che mia figlia andrà a prenderla. Pronta. Sì, ma chi sa, non è veramente la mia. La mia è vera. Ah, vabbè, fa già brutto però. Io lo so. La mia non è per 21. La mia si passa il cinghiale, oddio, c'è la notte, ma ha mangiato tutto, lo vediamo nella mondezza. Occhio che il cinghiale è maledetto, là di là. Ehi, a vedere, bacio macchini. A me e a Nino si è mangiato tutto, prima si è mangiato la mondezza che c'era dentro. E passa lunedì, mercoledì e venerdì, sì. Cazzo. Ah, poi c'è già arrotegato, butto lo tappo dello goscio, del contenitore, la mazza che tiene nell'aria. A rugginghiare, a rusa cosa mi butto? Là, per essere sicuri. Tu mettilo a mangiare a Naidrico, vorrei un pochetto di ghiaccio. No, ma non deve essere il nostro però, perché noi ne abbiamo uno che sale, non è molto grande che sale, cioè che non ci sale, rimane giù, perché sa che noi le portiamo la buccia della frutta, gli avanzi, capito? Le portiamo un po' di roba e rimane giù. Questo deve essere qualche altro. È salito a cercare da mangiare, che sta mangiando tutta la mondetta, ha fatto un casino niente. E poi ci ha mangiato un dappo. E chi c'ha pompa mi serve Natalì, avevi baciato Macchini. Gli ha rigato a pallettone così sei sicuro che non li bagli. Ma l'altro giorno rientrando lo stesso mia figlia, già dallo sbatti traffico, prima di entrare a casa, vedeva il lampeggiante, ha detto, ma ora è incidente, perché ne succedono parecchi, no? Mancate precedenti, le uscite che ci sono, delle case, eccetera. Cazzo, invece una macchina va presa in pieno un cinghiale, c'era i carabinieri, c'era la forestale, capito? E stavano aspettando il coso per portarlo via, mamma duro, l'hai fasciato tutta la macchina sembrava un frontale, ragazzi, distrutta, vira, e stavano aspettando il carro attrezzi, perché attraversano la strada, capito? Chi insomma sa punirla a magna, se la vedi piano piano, è un dire. E poi domani rubone assinerà da voi, tra qualche giorno, carro di cinghiale? No, ci vuole la scala, ci vuole subito, ci vuole la scala, lo attacchi alla scala, lui lo sezioni bene. Poi mi vuole un bruciatore, ma usciarlo. Allora il mondo tronici, con il mio vicino siamo organizzati, noi lo primo, ne abbiamo mangiato quattro di quelli nostri. Cosa pensiamo, ne mangiamo? Dai, mangiamoci. Quello è molto pratico. Molto, capito? A salire, ma pesci. Ha attraversato uno, l'ha preso in pieno e l'ha buttato dall'altra parte della cunetta, perché non la gattavano. Ha chiamato Nini, una macchina ha preso il cinghiale, io scendiamo con la luce. Siamo scesi con la luce che se ne ancora muovendo i ranchi, ha tutto quel a capo, ha un gassone a rugofano e vamo sulla playa, pronto subito, il coltello in gola, vedo il mazzato di Django, appeso, usciato e vamo sulla playa. Così ho fatto subito. Che come se lo buco, cazzo, se ne pesa ed è finito, è pericoloso lo cinghiale. Infatti stava muovendo ancora le gambe, però siccome era buio non hanno trovato, invece l'ha buttato all'interno della cunetta sotto un macione, quindi ha pigliato lo viaggio. C'ha un cane micidiale, è come cacciatore, ha sceso il cane, era sotto lo macione, ma lui, poi il cane, boom, fai per capo, adesso nel cofano e vamos. È fatta a sughetto, no. Ma che, cosa ride? Infatti, ho usciato subito, poi si accappa in giosso, faranno il sangue, attaccato alla cara e sezionato. Allora già come dici, un burro. Non lo vogliamo stare a noi, no? Noi abbiamo un gatto attaccato all'alburo, l'ha pigliato con la mano del gordo, l'ha preso al gancio, c'è un gancio di quelli in acciaio di cose di macelleria, dove appendono i vitilli, l'ha piccato in chivi, siamo rimasti fino a mezzanotte e mezzoluna, vamos! Bisogna saperlo se il babbo era bravo, mi offendi che si cose. Gente, aspetta, ci vuole, lui c'ha più di 70 anni. A fare queste cose, cioè lui cazzava come te l'ammazzano, che li prendono la macchina e chiamano subito, si fermano lì, capito? Perché ci hanno l'anno, allora rimane i carabinieri, la forestale, boh, non puoi capire nulla. E invece la forestale ce n'è andata e ve li abbiamo messi nel QSO e per tre ballacchele, capito? Il nostro Anto, quello che rimane giù, quello rimane giù nella vallata dove c'è ancora il cantiere, e c'è un cinghiale grande, uno piccolo e c'ha due o tre cinghialetti, quello rimane lì, noi scendiamo a darle da mangiare col mio vicino, ci fanno anche avvicinare, io ho paura di toccarli, però il mio vicino si avvicina, li tocca, li ha mangiati, ciò, venite gatti, li ha mangiati, di tutto mangiati, di tutto. C'ha il compare che c'ha la frutta e verdura, quindi le porta a sei a me le mele che mi dà, però io non le ho a cinghiali perché le mangia il mio cane. Mele, banane, meloni toccati, verdura toccata, peperoni, melanzane, di tutto, le scende cassette intere, la butta, ciò, di già magari, quando ne in tre si rimagna. E allo zoco che fate di così già, allo zoco. E chi ci sono buone lì? Ma cioè chi se no non vanno ghiotti di ghiande, se li fai vedere le ghiande ci in capo. Azzo! Quindi fa l'accordo qua con quel cane da caccia, disse. E mio suo separato. E niente. È macchia mediterranea, e basta. Se no, mangiano sì. Cazzo si mangia. Allucinante io. Sono anche belli, mezzo maduro, dice, molto. L'altro invece che ha preso in pieno quella macchina era mezzo a taglia, ma ha fatto un danno. Ha tenuto l'ugrofano, il paraurti, il parafango, ha rotto un faro, il fianchetto, visto che l'ha bucato un radiatore. E non deve essere che non l'ha preso a testa, capito? Se lo prende a testa lo crepi. Adesso l'ha preso di fianco e l'ha buttato dall'altra parte, non era ancora morto, eravamo vendinanti, non era quasi a Pisassini, ma ci c'era qualche costola rotta. Allora Nino l'ha gabbato, a me mi dispiace, io sono amante di animali, quindi la vita bruciava che aveva il due, se è morto va bene, ma se è ancora vivo io non per farlo più, ma io già l'invasi, ecco già l'invasi, a me mi dà fastidio. Ma quando devi fare la magna però già ti attibiate già. E poi lo so cucinare bene, faccio un agrologio, faccio il sugo con i gnocchetti, faccio di tutto, buon aspettatino, buona regola, io so fare bene il cinghiale, mi hanno insegnato. Quando ero a Cagliari a San Rocco, cacciavo un collega cacciatore, faceva il tuo cinghiale che era la fine del mondo. Ogni tanto me lo faceva assaggiare, dimmi come lo fai, me l'ho fatto vedere cucinandolo, ho imparato e lo so fare, faccio molto molto buono. Gappa, anche ore sono, ecco le 8:30, vai giù al vampo, che sta grande arrivati a cominciare a mangiare. Oh, io dolce ride. Già lo so già. Dai, guacco per me che io devo scendere giù a dalle signore, dai, se no non sta bene. Dalla signora, perché c'è anche mia cognata a casa. E vabbè. Scendo un po' con loro, dai, ce la risentiamo! Ciao! Ciao Enzo, ciao! Auguroni! Di nuovo! E tutti sanno che... Grazie Natalia! Ciao qua, ce la risentiamo! Ehi Enzo, rinnovo gli auguri a te, Sara, anche a tua cognata, dai, a tutti! Lasciate le radio accese, magari ogni tanto ci sentiamo, anche io mi sposto a andare in cucina, dai! Mi ho fatto una cosettina, ma già non fa, mi piace andare lì, io come sto? E io già ho fatto un po', cioè più tardi. Io voglio trovare questa macchina. Sì, ma del tutto, perché cazzo senza mangiare non posso cacchine, ma giù misurato la glicemia. E qualcosa la devo mangiare, se no mi si abbaccia al gruppo e devo andare. Ma Filippo, beh, d'accordo va col cane del tuo vicino? Alla grande, c'è problema, sono due occhiali, siamo d'accordo. Con quello da caccia io sto parlando, mi. Così impari a coso, per emulazione lo fammi. Se va d'accordo con quel cane da caccia, cerca anche i cinghiali. Io Filippo mandrone, un cane mandrone, lo già cerca cinghiale. Un cinghiale è se vede un cinghiale è fuggi Filippo. Lo già... No, qui ci sono cani piccoli da conigli, da cinghiali, da piccola sana dei cinghiali. Non sono, però sono molto bravi. E perché è bello setti tu? Tu che mandroni, no? Va bene. Ecco, cane mandrone mantenissimo, ma cos'è che hai là? Mi dicono per il mio mocettone che lo ringa a voi, è un cazzo di muovi. E sono così quei cani. Mandrone, cazzo, non mandrone, ma te chi sono mai visto. Dai, ci sentiamo tra un attimo, vado in cucina a portare lì. Eia.